Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, benvenuti, sono le 12 e 15 minuti esatti in questo istante. Oggi è giovedì, penultimo appuntamento con Salva Danaio. Oggi ci occupiamo di Universiadi del Trading. Si sono concluse a fine settembre i vincitori. Sono un gruppo di studenti di Roma con cui parleremo, cercheremo di capire come è nata questa iniziativa, quali frutti ha portato, e sarà ovviamente anche un'occasione per parlare del trading online che sempre più spesso interessa, soprattutto in un momento anche così di difficoltà come quello attuale dal punto di vista economico. Come al solito lo faremo con degli ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio. E allora saluto subito Mario Fabbri, amministratore delegato di DirectaSim. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Saluto anche Duccio Martelli, che è docente presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E poi saluto Clara Fabiola Oliva, che è la caposquadra della Louis Blue Team, che ha vinto le Universiadi, quindi prossima dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima però andiamo velocemente a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Intanto possiamo cominciare col dire che i mercati asiatici hanno chiuso con il segno più. Sicuramente la migliore è stata Tokyo, in rialzo di oltre 2 punti percentuali. Le altre piazze asiatiche non hanno chiuso con lo stesso risultato, ma comunque appunto in territorio positivo. Questo grazie in maniera particolare alle decisioni della Fed, ieri rese note al termine della riunione. È rimasto stabile l'intervallo relativo ai tassi di interesse, ma ciò che invece premeva è stato l'annuncio di un piano di acquisto di Treasury da 600 miliardi di dollari entro fine giugno 2011 e concentrato soprattutto sul comparto di 5-10 anni, quindi a breve-medio termine, con un ammontare molto contenuto invece destinato alla parte a lunghissimo termine. C'è da dire che i mercati si attendevano questa decisione, si attendevano, quindi in qualche modo avevano già scontato, però diciamo che forse è stato disatteso l'ipotesi di un approccio più graduale. Ecco, quindi spiegato tutta questa euforia di oggi delle piazze: Parigi guadagna quasi 2 punti, Francoforte 1,5 punti, Londra guadagna l'1,7%, a Milano il FTSE MIB guadagna l'1,61%, il FTSE All Share guadagna l'1,50%. Sul listino principale in questo istante il titolo migliore è Buzzi Unicem, che allunga ulteriormente il passo, guadagna il 5,26%, beneficia dell'ottima trimestrale riportata dal produttore tedesco di materiali per le costruzioni Heidelberg. Altro titolo che fa molto bene è Azimut, che guadagna il 3,47%, e poi tutto il comparto bancario: UbiBanca più 2,55%, Unicredit guadagna il 2,44%, Intesa San Paolo il 2,44%, Monte dei Paschi il 2,42%, Bene Mediobanca che guadagna il 2,26%. In evidenza anche il titolo Pirelli, che ha consegnato una buona trimestrale e guadagna il 2,13%. In fondo al listino invece ritroviamo unico titolo che cede terreno, Finmeccanica, che tra l'altro sta ampliando anche le perdite, cede l'1,7%. Finmeccanica ha comunicato ieri la propria trimestrale, che evidentemente non è piaciuta al mercato. Per quanto riguarda Enel Green Power, che oggi debutta sul listino, in questo istante il calo è del 3,88%, quindi diciamo che non esordisce proprio nel migliore dei modi, visto appunto il calo attuale, che comunque è un calo che si trascina fin dalle prime battute. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,4224 sul dollaro, quindi l'euro si apprezza sulla moneta statunitense. Qui si esaurisce la nostra parentesi relativa ai mercati. Come dicevamo, noi oggi parliamo di Universiadi del Trading. Doppia occasione quindi per parlare sia delle universiadi sia del trading online. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, e adesso la nostra scheda. Curare i propri investimenti da casa così come dall'ufficio. Sono sempre più numerosi gli italiani che hanno deciso di seguire in prima persona il proprio portafogli utilizzando internet, affidandosi al trading online. In particolare si tratta di uomini di età compresa tra i 35 e i 50 anni e quasi tutti concentrati nelle regioni del nord Italia. Il trading online, servizio che consente appunto l'acquisto e la vendita attraverso internet di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e titoli di Stato, è sbarcato in Italia oltre 10 anni fa. Tra i punti di forza il fatto di essere uno strumento poco costoso per investire il proprio denaro in borsa. Le commissioni sono infatti basse e in più si ha accesso a quotazioni e grafici in tempo reale, analisi tecnica e fondamentale e tante altre cose che servono all'investitore per effettuare le scelte di investimento giuste al momento giusto. Ingredienti che hanno infatti contribuito alla rapida diffusione e al suo successo, tanto che sono sorte diverse iniziative per diffonderlo, tra queste le cosiddette Universiadi del Trading, una competizione partita ai primi di marzo e conclusasi a fine settembre, che ha visto fronteggiarsi oltre 40 squadre provenienti da tutta Italia. Allora, io vorrei cominciare subito dal dottor Fabbri, perché abbiamo sentito nella nostra scheda le universiadi sono state anche un modo per far conoscere questo strumento, ma io vorrei sapere proprio operativamente come vi è nata questa idea. Ma diciamo è nata un po' per caso, diciamo il nostro responsabile del settore istituzionali, signor Marino, si è incontrato con il professor Raggetti dell'Università di Ancona e qui discutevano di, quando è tornato qua ci ha proposto l'idea di sviluppare una qualche competizione tra i ragazzi dell'università. E ci abbiamo pensato un po' e abbiamo dato la forma dell'Universiadi, che è piaciuta molto, diciamo, alle università e anche soprattutto agli studenti. Un po', voglio dire, prenderli fin da giovani, insomma. Ma non è proprio questo, non ci aspettiamo di fare dei clienti, sì, degli universitari, ma era una cosa in sé interessante. Tra l'altro avrebbe potuto, pensavamo, permetterci di valutare se ci sono delle differenze tra chi studia economia e chi invece, insomma, i normali investitori, e più o meno l'abbiamo fatto, cioè è pure una cosa, diciamo, simpatica. Ecco, tra poco torneremo su questa cosa delle differenze, perché comunque è una cosa interessante capire se poi chi studia materie attinenti abbia, come dire, una marcia in più. Però io vorrei subito chiamare in causa anche Clara Fabiola, perché intanto i complimenti, perché alla tua squadra, posso darti del tu, spero, perché alla tua squadra è andata la vittoria. E poi volevo anche sapere se vi siete divertiti in questa maratona, che è stata abbastanza avvincente, con colpi di scena vi siete superati tra vari team più di una volta. Esatto, sì, intanto la ringrazio dei complimenti, ci siamo divertiti tantissimo, è stata un'esperienza molto positiva. L'idea era proprio quella di imparare il più possibile e quella di, per me personalmente, dato che ero il leader, di gestire al meglio un gruppo di colleghi e cercare di mediare tra di loro le decisioni. Abbiamo imparato veramente tanto, soprattutto a sfruttare le news provenienti dal mercato, e sì, ci sono stati molti colpi di scena, è vero, sebbene per 8 settimane siamo stati in testa alla classifica, con percentuali di riguardo addirittura toccando il 48%, e successivamente appunto c'è stato il periodo degli esami che ha travolto, sì, purtroppo è questa la verità. Bisogna pur studiare, insomma. Sì, siamo ancora al quarto anno, anzi quinto, ormai abbiamo cominciato il quinto anno, quindi abbiamo gli ultimi esami, certo. E appunto giugno-luglio è stato un periodo traumatico, perché cercavamo di essere presenti sul mercato al 100%, ma allo stesso tempo dare il nostro meglio anche con gli esami universitari. Quindi abbiamo avuto una performance leggermente ridotta, con appunto dei colpi di scena, come diceva, sebbene abbiamo cercato sempre di mantenere distanza dagli altri componenti Sì, partecipanti, fino all'ultima settimana, nella quale un colpo di testa, anche negli ultimi giorni, siamo riusciti ad incrementare la nostra posizione, raggiungendo il 27%. Allora, torneremo anche qui perché mi interessa capire il colpo di testa, poi da che cosa è scaturito, come vi è venuto, insomma, com'è stata la dinamica dell'ultima settimana e quindi ciò che vi ha portato alla vittoria. Professor Martelli, che tipo di esperienza per i ragazzi, nel senso che qui si sono confrontati non solo con lo strumento del trading, ma anche in gruppi di lavoro che evidentemente hanno messo in evidenza le caratteristiche del lavoro insieme. Ma assolutamente, le finalità del gioco infatti sono molteplici e queste sono state ben apprezzate dagli studenti, basta citare alcuni dati, sono state ben 44 squadre quelle partecipanti, che hanno coinvolto oltre 30 facoltà e circa 160 studenti. Per quanto riguarda gli obiettivi del gioco, oltre a quelli alle citati, mi preme ovviamente far presente anche l'esperienza che gli studenti hanno potuto mettere in pratica nel corso di questi mesi, soprattutto essendo vicini ai mercati e quindi mettendo in pratica le conoscenze apprese in aula nel corso dei loro anni di studi. In secondo luogo, gli studenti partecipanti possono accedere a un canale privilegiato del mondo del lavoro messo a disposizione da Didirecta e in particolar modo dai clienti della SIM, sponsor dell'iniziativa. Allora, dottor Fabbri, che appunto lo ricordiamo, amministratore delegato di Didirecta SIM, che è una società di intermediazione immobiliare operativa dal 96 ed è il primo operatore di trading online. Lei diceva, questa struttura delle universiadi ci ha dato anche la possibilità di vedere se ci sono differenze tra chi opera, diciamo così, magari quotidianamente o più sporadicamente, e questi ragazzi che hanno una preparazione in materie che sono, diciamo, attinenti. Che cosa ne avete tirato fuori? Ma devo dire la verità, più o meno vediamo replicato negli studenti universitari lo stesso profilo di trading e di risultati sul trading che si trova anche tra i normali investitori. Va detto che c'era una piccola differenza che può avere spinto qualcuno operare in maniera forse più arrischiata, sì. Ed era che in questo caso le perdite erano a carico di Didirecta. Ecco, infatti anche su questo vorrei poi ovviamente, perché i ragazzi in qualche modo, è vero, si sono confrontati con un sistema, se vogliamo anche con un'esperienza molto nuova, però avevano una rete di protezione, per cui avevano un budget a disposizione e le eventuali perdite erano a carico vostro. Sì, questo può avere alterato un po' il tipo di decisione, ad esempio uno si trova in difficoltà e gioca in maniera molto rischiosa perché dice se va bene, mi va bene. È tutto di guadagnato, certo. Sì. Avevamo anche pensato se chiedere una minima partecipazione, non so, i 1.000 euro su 5.000 messi dagli stessi studenti, ma poi abbiamo ragionato che probabilmente questo avrebbe reso molto difficile in certi casi, non certo in tutti i casi, la partecipazione. Ho capito. Per quanto riguarda invece le possibilità di lavoro, però devo chiedere a tutti voi qualche minuto di pazienza perché dobbiamo interromperci, ci ritroviamo tra pochissimo e parleremo proprio delle possibilità di sbocco lavorativo che anche forse da queste universiadi potranno venire. Le 12.32, stiamo parlando delle universiadi del trading e quindi stiamo parlando anche di trading online. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora ci eravamo interrotti parlando delle possibilità, eventuali possibilità lavorative che potrebbero scaturire dopo questa manifestazione relativa proprio alle universiadi. Dottor Fabbri, quali prospettive eventualmente ci potrebbero essere per questi ragazzi che hanno partecipato, anche tutti coloro che sono rimasti fuori dal podio, diciamo così? Ma diciamo, vedrei due aspetti. Il primo, tutti i 160, quelli che hanno partecipato, dovrebbero avere le idee un po' più chiare su cosa può dare o può non essere il mondo della negoziazione dei mercati azionari, che visto sui libri o nelle lezioni magari può dare delle idee sbagliate, magari uno può anche certo. dire questo non è il mio terreno. Sì. Poi noi facendo leva sulle nostri buoni rapporti col mondo degli istituti bancari, abbiamo trovato 6 istituti di credito con cui siamo dei 160 con cui siamo convenzionati, che hanno offerto al minimo di 2 stage a testa, che verranno, quindi ce ne sono almeno 12, ma potrebbero anche essere di più, che saranno messi a disposizione dei vari di altrettanti partecipanti. Sì. Questa è un'iniziativa, il primo anno, ma contiamo che possa anche espandersi in termini numerici, è modesta ma può anche essere utile. Certo, sicuramente per capire un po' di più anche che cosa si vuol fare poi in futuro. Allora, sono arrivati alcuni sms al 349-238-6666, diciamo così, con una vena polemica, che io giro prima di tutto al professor Martelli, poi li girerò anche al dottor Fabbri, e vorrei poi sentire anche l'opinione di Clara, perché c'è qualcuno che scrive, anzi più di uno che ci scrive, sì vabbè, ma il trading si fa veramente rischiando il denaro vero, non tra virgolette rischiando sulla pelle altrui, e quindi questo è stato solo un gioco, non perché poi rischiare sulla pelle degli altri modifica enormemente l'atteggiamento operativo. Professor Martelli. Assolutamente, concordo con la considerazione fatta dall'ascoltatore e con quanto detto dall'ingegner Fabbri circa le opportunità di lavoro. Voglio aggiungere solamente una considerazione, ossia i mercati sono facilmente accessibili da tutti, tuttavia oggigiorno il trading online è sempre più difficile anche per gli operatori professionisti, causa l'alta volatilità. Quindi strategie vincenti che in passato non erano profittevoli, oggi purtroppo devono essere modificate alla luce dei nuovi scenari. Servono quindi maggiori conoscenze sia sugli strumenti sia sulle tecniche di investimento e soprattutto il tempo da dedicare al trading online. Come diceva anche il capitano della squadra vincitrice, il loro team non ha avuto modo di stare a seguire i mercati, stare al passo con le notizie che uscivano nel periodo degli esami giugno-luglio. Sì. Ma anche i risparmiatori che vogliono investire in autonomia che vogliono seguire in autonomia i loro investimenti, ovviamente devono trovare il tempo per seguirli, monitorarli e quindi uscire o entrare in una posizione quando il mercato risulta profittevole. Sì, sì. Per quanto riguarda la considerazione fatta dall'ascoltatore, dobbiamo inoltre considerare che solitamente i gestori professionali non operano con i loro risparmi, ma gestiscono ovviamente portafogli altrui, quindi se da una parte la sua considerazione può essere vera, questo infatti si tratta di un gioco, nessuno vuole creare, come ha detto l'ingegner Fabbri, trader professionisti che operano online 24 ore su 24, dall'altra il gioco poi non si discosta molto dalla realtà, come anche la classifica evidenzia. Diciamo che è un gioco utile, mettiamola così. Assolutamente sì, è un gioco utile non solo per i ragazzi stessi che, come ho detto prima, hanno avuto modo di sperimentare situazioni diverse che nessuno fino ad ora aveva offerto, almeno in Italia, ma anche per possibili istituzioni e per noi studiosi, perché da questo gioco credo possano nascere considerazioni interessanti da poter sviluppare, dato che le ricerche sul tema sono contrastanti sia a livello italiano che internazionale. Allora, professor Martelli, io però le voglio girare anche un altro sms, perché in base a una considerazione che faceva prima il dottor Fabbri, un ascoltatore ci scrive: ma allora per quale motivo dovrei studiare finanza se poi non acquisisco nessuna competenza in più rispetto a chi ha studiato altro? Mi iscriverò ad un'altra facoltà. Ma questo non è poi così vero. Invito l'ascoltatore a verificare la classifica finale, la graduatoria finale sul sito di directaworld.it. Non significa ovviamente chi ha competenze non finanziare non possa accedere ai mercati, anzi sui mercati servono competenze cross, come dico solitamente anche ai miei studenti, quindi sicuramente facoltà più tecniche quali economia o ingegneria possono essere più avvantaggiate, in particolar modo perché già in aula sentono parlare di strumenti più o meno complessi, probabilmente facoltà più umanistiche che devono, dove gli studenti devono fare tutto in autonomia, partono un gradino svantaggiate, ma questo non significa nulla, perché conosco operatori che hanno frequentato magari il liceo classico e facoltà di lettere e poi sono ottimi trader professionisti, ed altri che benché abbiano studiato molto sui mercati, purtroppo meglio che cambiano professione. Come dicevo prima, quello che conta è, oltre alle conoscenze, il tempo da dedicare a questa professione. Ripeto, il trading online è un'attività molto rischiosa, sebbene spesso se ne parli anche in maniera inappropriata. Seguire i propri investimenti fa piacere ovviamente a tutti noi, tuttavia seguiamo i nostri investimenti in maniera consapevole. Certo, forse un po' più che un hobby. Clara, io volevo chiederti due cose. La prima, appunto, tornare su quel, come l'hai definito tu, il colpo di testa dell'ultima settimana. E poi anche un'altra considerazione volevo da te, perché spesso il profilo che viene fuori del trader è quello di un uomo, e invece mi sembra di aver capito che nelle squadre che hanno partecipato alle universiadi la componente femminile non fosse proprio da sottovalutare. Lo dimostri tu che sei il capitano della squadra che ha vinto. Esatto, allora innanzitutto per quanto riguarda l'ultima settimana abbiamo deciso di operare seguendo un trend che avevamo già individuato in precedenza. Ma l'idea era quella di non investire mai e di non effettuare mai un colpo di scena, ovvero di non fare il tutto per tutto, è per questo che non siamo mai passati in rosso, in negativo, durante tutta la competizione. Il nostro atteggiamento è sempre stato, diciamo, abbastanza avverso al rischio, perché l'intenzione era proprio quella di evitare perdite così da poter arrivare, diciamo, in vetta alla classifica. Abbiamo modificato in parte il nostro atteggiamento però verso il rischio, non tanto perché i soldi, le perdite erano a carico di diretta, bensì perché all'inizio il gruppo, diciamo, è stato costituito dal professor Barone, quindi è stato selezionato, e non ci conoscevamo inizialmente, quindi è stato è stato necessario il tempo per fidarci reciprocamente e per amalgamarci meglio. Quindi, diciamo, alla fine l'ultima settimana siamo stati spinti anche dall'eventuale, tra virgolette, gap che ci poteva essere nel regolamento, per la paura di una qualsiasi squadra, magari in una posizione come quella dello 0%, che con un colpo di testa poteva effettuare una performance del 30 o del 40 in un'unica operazione. Quindi, appunto, abbiamo cercato di incrementare, seguendo però sempre una linea di diversificazione e cercando allo stesso tempo di mantenersi competitivi. Però purtroppo è vero che nel mercato, almeno sotto la mia idea, che il mercato è ancora molto maschilista sotto questo punto di vista. Forse più che maschilista è proprio maschile, nel senso che non c'è, sono le donne che poi forse non si avvicinano a questo tipo di attività, però poi lo chiederemo meglio anche al dottor Fabri, che forse ha una conoscenza anche più da vicino del panorama proprio di chi utilizza queste piattaforme. Però comunque tra di voi c'erano parecchie ragazze che hanno partecipato. Nella mia squadra, oltre a me, c'è anche un'altra ragazza, e diciamo che la scelta, appunto, di avvicinarci al trading, personalmente amo, diciamo, l'economia, e appunto mi sto laureando in finanza quantitativa, quindi la scelta è quella di continuare sulla strada che ho cominciato, e allo stesso tempo mi accorgo che mi scontro, diciamo, soltanto con uomini e quindi con un aspetto... C'è diffidenza? Molto probabilmente sì, ma più che diffidenza direi è proprio una questione di cultura, perché le donne, per quanto siano, diciamo, più moderate e quindi più avverse al rischio, allo stesso tempo potrebbero apportare una mano, come è stato alla fine nel nostro gruppo, apportare quella che è anche la calma e la voglia di non rischiare il tutto. Me ne sono accorta appunto nel team, ma anche nella vita in generale. Quindi appunto le donne dovrebbero avvicinarsi a questo trading, a queste attività, ma dovrebbero anche essere apprezzate di più, molto probabilmente. Allora, dottor Fabbri, lei mi corregga se sbaglio e se ho detto una cosa sbagliata dicendo che il trader di solito, quando si pensa al trader, si pensa a un uomo. Sì, questo corrisponde alle cifre, noi lo vediamo nei nostri clienti, lo vediamo alle fiere, che, dove normalmente con pochissime, ci sono per carità pochissime eccezioni, la popolazione di visitatori è maschile, ma va anche tenuto presente che il trading online ha un profilo più maschile o di un certo tipo di uomo, perché è un'attività abbastanza solitaria. Questo non piace, piace più, diciamo, è più popolare questo tipo di questo profilo tra gli uomini che tra le donne. L'idea di mettersi lì, di trovare magari, questo è il sogno di molti, sì, la formula magica, sì, schiacciando i tasti nel modo giusto fa uscire i soldi, e cattura più facilmente gli uomini. Poi non è che li cattura, ma non si... è difficile che si realizzi. E infatti, a questo proposito, cito un altro SMS di un ascoltatore, il quale ci dice: faccio trading da un anno, è la mia nuova professione, ma non illudete nessuno, serve solo per risparmiare sui costi, il resto è troppo difficile anche leggendo di tutto. Dottor Fabbri, è così difficile, quindi dobbiamo comunque mantenere insomma una certa cautela anche per chi si vorrebbe avvicinare e renderlo qualcosa più che un hobby magari? Certo, questo le dico, il trading o in ogni caso l'investimento finanziario è un'attività direi quasi di tipo agonistico, nel senso che è competitivo. Vincono quelli che per un motivo o per un altro hanno più frecce al loro arco, e naturalmente chi vince è sempre una parte ristretta di quelli che si cimentano. È molto facile per contro illudersi di essere forti, di essere dalla parte giusta, e quindi la maggioranza si trova nella perdita. Ci sono pochi quelli che riescono ad ottenere dei... Certo. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla viabilità, ma restate con noi. Le 12:47 minuti, ultima parte di Salvadanaio, stiamo parlando delle universiadi del trading, quindi anche ovviamente del trading. Una curiosità mia, perché sono arrivati un po' di SMS che chiedo al professor Martelli. Più appunto di un ascoltatore ci ha scritto: io ho una buona, anzi un'ottima conoscenza dei mercati, magari anche studiando tutt'altro, ad esempio un ascoltatore che studia architettura e un altro, adesso non trovo più l'SMS, ma comunque un'altra facoltà che non ha attinenza con l'economia. Peccato che non ho potuto partecipare da solo. Ma perché avete previsto solo il gioco a squadre, visto che, come diceva poco prima il dottor Fabbri, il trading è poi un'attività abbastanza solitaria? Questo sì, è vero, buona parte dei trader professionisti operano in autonomia. Tuttavia, se noi pensiamo a quanti si scambiano opinioni sui vari forum online, questa forse la professione di trading online non è poi così solitaria, ma la comunicazione non avviene in maniera verbale e diretta come può avvenire in un lavoro di gruppo. Abbiamo pensato ad organizzare dei team proprio anche per sviluppare uno spirito di collaborazione all'interno. Ancora una volta, questo è stato un gioco, anche se lo abbiamo reso molto attinente alla realtà. Se mi permette, voglio un attimo riallacciarmi anche al precedente SMS che ha letto circa il trader che da qualche anno è diventato pro. Voglio solo dire che forse l'unico principio che premia è quello della diversificazione, ossia non mettere le uova tutte nello stesso paniere. Sembra molto banale, ma nel nostro caso i risparmiatori non dovrebbero investire tutti i loro investimenti in un unico titolo. Questo per quale motivo? Perché se noi investissimo tutti i nostri risparmi in una sola azione, bond o comunque in un unico strumento, e perdessimo il 10%, solo per fare un esempio, per tornare poi alla situazione di partenza dovremmo guadagnare 11 punti percentuali. Se invece noi da 100 perdessimo il 33%, dovremmo recuperare e quindi guadagnare il 50% del nostro nuovo portafoglio. così se pensiamo a una perdita del 50% dovremmo addirittura raddoppiarlo. Questo che cosa significa? In maniera molto semplice e breve, che sì, la strategia vincente forse è quella non tanto di puntare ad un guadagno, ma prima di tutto cercare di limitare e contenere le perdite, chiudendo in rosso le posizioni non profittevoli prima che queste perdite diventino troppo ampie per poter essere poi recuperate. Allora, abbiamo un ascoltatore in linea, il signor Sante da Taranto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo intervenire con riferimento a quanto è stato detto prima, sia perché sono un trader da ormai 25 anni e quindi ne ho fatto una professione, sia perché sono un insegnante di economia aziendale nelle scuole superiori e sono, credo di essere il primo insegnante italiano che ha introdotto la cultura dell'investimento, oltre che del trading, già ai ragazzi che hanno 16-17 anni. E quindi volevo dire che bisognerebbe, bellissima l'iniziativa per carità delle università, sì, però bisognerebbe insegnare la cultura finanziaria così come ho fatto io già nelle scuole superiori, perché ho notato che poi questi ragazzi una volta passati all'università hanno veramente una marcia in più, perché cominciano a considerare concetti che apparentemente appaiono complessi in maniera totalmente diversa. E per far questo ho addirittura realizzato 3 anni fa un mio sito web personale nel quale i ragazzi navigano e imparano per esempio tutte le parole del trading, del glossario, cioè tutta una serie di informazioni che utilizzano come uno strumento didattico. Certo. Allora, questo mi dà la possibilità di rivolgere 2 diverse domande ai 2 dei nostri ospiti. Professor Martelli, c'è un gap culturale in Italia? Lei conferma ancora una volta che c'è un gap culturale in Italia proprio sulle materie della finanza, della conoscenza, anche proprio terminologica? Confermo che c'è un gap, esatto, non tanto su aspetti tecnici quanto su aspetti banali, quindi concetti inflazione, investimenti, risparmio. Per quanto riguarda la considerazione che faceva appena il collega, ci sono numerose iniziative che rientrano in un'iniziativa, in un progetto più ampio di financial education, ossia di educazione finanziaria, rendere la cultura in campo economico disponibile a tutti, non solo alle scuole superiori, ma ci sono alcuni progetti che partono fin da piccoli, perché fin dall'età magari di 5-6 anni, quando i bambini iniziano a riscuotere la prima paghetta, questi iniziano a capire che cosa significa il concetto di investire, di spesa o di risparmio. Certo. Ci sono ottime iniziative di ABI particolari o altre istituzioni, sì, Banca Italia, certo, ma anche certo, di istituzioni private. Questo è un filone molto interessante e che non solo in Italia, ma se pensiamo anche in campo internazionale, sì, in particolar modo in America, dove il governo Obama ha stanziato proprio ingenti fondi su queste iniziative. Sì, sì, certo, anche perché dobbiamo sempre comunque considerare che qui non è finalizzato al trading, ma insomma la cultura finanziaria è finalizzata proprio a affrontare vita la vita quotidiana, quindi questo è un messaggio. Il trading online è solo un aspetto. Certo. Certo, questo è un messaggio che Salvadanaio ripete, credo non quotidianamente ma quasi, perché un po' tutto poi ha a che fare con l'amministrazione della propria vita quotidiana. Al dottor Fabbri invece volevo chiedere se questo gap culturale è alla base del fatto che il trading online in Italia si è affacciato molto tardi, insomma intorno alla fine degli anni 90. Ma veramente questo potrà sorprendere, ma l'Italia nel trading online è stata all'avanguardia rispetto ad altri paesi, non nelle operazioni in borsa, dove sì, ma noi come Direct abbiamo cominciato a offrire i nostri servizi nel 96 addirittura, anche se nel 96, inizio 97, diciamo che non esisteva un mercato. Certo. E quindi abbiamo anticipato altri paesi come la Francia, che ancora adesso è arretrata, la Gran Bretagna, la Spagna, diciamo che siamo partiti insieme agli Stati Uniti. E quindi non è questo il problema. Il problema forse sul trading, abbiamo il primo o secondo trading d'Europa come consistenza, anche grazie al fatto che la borsa italiana storicamente ha avuto costi molto più bassi di quelli contenuti, cioè. E questo aiuta ovviamente l'attività intensa. Sì. Magari non c'è una grande cultura generale, parlando dei milioni di italiani, sì, piuttosto che decine di migliaia di trader, sugli aspetti economici finanziari, ma questo è un un fatto diverso. Sì. Il trading siamo veramente all'avanguardia. Allora, vorrei poi regalare l'ultima battuta a Clara, però vi leggo il messaggio dell'ascoltatore di architettura, dello studente di architettura che ci ha scritto anche prima, che appunto è un appassionato di trading, che spesso dice si partecipa ai forum, ma spesso i forum sono fuorvianti. Ho cominciato a vedere i risultati quando ho smesso di sentire gli altri, ossia avendo influenze di gruppo. Clara, a te l'ultima battuta, perché a questo punto voglio sapere se il trading è nel tuo futuro. Ma sicuramente all'interno della squadra avevamo già, alcuni di noi avevano già effettuato degli investimenti per conto proprio, e quindi sicuramente sarà nel nostro futuro, e diciamo che le università hanno rappresentato per noi soltanto un'opportunità per vivere un'esperienza concreta di trading senza correre un grave rischio economico. E allo stesso tempo la nostra idea è quella di continuare, anche se magari non in gruppo, singolarmente, e sfruttare quelle che sono delle conoscenze acquisite grazie proprio alle università. Allora, grazie a te Clara Fabiola Oliva, che è appunto la caposquadra della Louis Blue Team, che ha vinto le Universiadi, ovviamente in bocca al lupo per l'ultimo anno, al professor Duccio Martelli, docente presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e grazie anche al dottor Mario Fabbri, amministratore delegato di Directa Sim, per essere stati con noi. Io ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Carmelo Lauricella. Salvadanaio torna domani.